pronti? Motore. Partito. Ciak. Azione. La smetta di frequentare il passato. Cerchi di frequentare il futuro. Audiogrammi di Laura Faggin e Paolo Corleoni. You are a cinema, a Hollywood treasure. I love you just the way you are. A cinema, a cinema. Mettetevi comodi. Stiamo per raccontarvi il secondo tempo di Sostiene Pereira, di Roberto Faenza. Nella Lisbona degli anni 30, il signor Pereira è un anziano giornalista vedovo, responsabile della pagina culturale del Lisboa, un giornale di provincia. Intristito dalla scomparsa della moglie e poco interessato all'incalzare del regime salazarista, Pereira si affeziona a Monteiro, un giovane idealista e innamorato della bella Marta, e lo prende in prova al giornale. Dopo avergli affidato la scrittura di alcuni pezzi, Pereira parte per alcuni giorni di cura in una clinica sul mare. Audiogrammi in radio come al cinema. La clinica era un edificio rosa con un grande giardino pieno di palme. Restava in alto sulle rocce e c'era una scalinata che conduceva alla strada e poi alla spiaggia. Pereira salì faticosamente la scalinata. Il dottor Cardoso lo aspettava nella hall. Sarebbe stato lui a seguirlo nelle cure. Si presentarono e si diedero un appuntamento per cena. Alle 8, puntualissimo, il dottor Cardoso era seduto al tavolo della sala ristorante. Anche Pereira arrivò puntuale, sostiene, e si diresse al tavolo. Aveva indossato il suo abito grigio e si era messo la cravatta nera. Il dottor Cardoso gli sorrise e fece l'atto di alzarsi. Pereira lo fece restare comodo con un cenno della mano. Come le ho detto, sono un appassionato di letteratura francese. Questa settimana cosa ci riserva il suo giornale? Honorine, un racconto di Balzac sul pentimento. Io l'ho letto in chiave autobiografica. Voglio dire, nel senso che mi ci sono riconosciuto. Nel pentimento? Sì. Il dottor Cardoso fece un cenno alla cameriera e ordinò pesce ai ferri e bollito e una sogliola alla mugnaia. Il pentimento può essere più esplicito? Sì. Da una parte, io sono contento della mia vita. Ho lavorato 30 anni nella cronaca e ora mi occupo di letteratura, che è la mia passione. Ma d'altra parte, è come se avessi bisogno di pentirmi e non riesco a capire perché. Negli ultimi mesi c'è stato nella sua vita un particolare evento. Un evento? Sì, in psicoanalisi sta a indicare un fatto capace di sconvolgere il nostro equilibrio. Ah sì? Ah sì, negli ultimi tempi sì, c'è stato un evento. Ho conosciuto una persona, anzi, due persone. Due poveri ragazzi romantici, senza futuro. Senza futuro? Mi parli di loro. Ecco, ho assunto un giovane praticante che mi sembrava dotato per scrivere i necrologi. L'ho pagato di tasca mia per non pesare sul giornale, ma non ha ancora scritto niente di pubblicabile. Perché non cerca un altro praticante? Quel ragazzo scrive i necrologi, ma sempre da un punto di vista politico. Penso che sia Marta a mettergli in testa quelle idee. Chi è Marta? La sua ragazza. A parte il fatto che ci rimette i suoi soldi, non mi sembra che sia molto grave. Sono io che comincio a avere dei dubbi. E se quei due avessero ragione? Il dottor Cardoso chiamò la cameriera e ordinò due macedonie di frutta senza zucchero e un gelato. Finita la cena, continuarono la discussione in giardino. Lei conosce i medici filosofi? No. No? Sono medici e psicologi francesi, ma anche filosofi, che sostengono la teoria della confederazione delle anime. La confederazione delle anime? Sì, mentre nella tradizione cristiana si crede in un'unica anima, nella nostra teoria la personalità umana è vista piuttosto come una confederazione di più anime, che sono poste sotto il controllo di un io dominante. Il nostro equilibrio dipende dal controllo di un io dominante, che governa la confederazione delle anime. Nel caso emerga un io più forte, Questo spodesta l'io più debole e ne prende il posto. Ma nel mio caso, lei pensa che sia sopraggiunto un nuovo io dominante? Beh, da quanto mi ha raccontato, penso che la conquista da parte di un nuovo io non sia ancora avvenuta. Però presto potrebbe accadere. E in questo caso cosa dovrei fare? Aspettare. Dopo tanti anni passati a pensare che la letteratura fosse la cosa più importante, forse un nuovo io dominante sta prendendo la guida delle sue anime per provare che esistono altre cose anche più importanti. Non faccia quell'aria così afflitta. Lasci pure che il suo nuovo io dominante venga a galla. Lo aiuti a vincere la sua battaglia. Pereira sostiene che la teoria del dottor Cardoso era molto interessante. Lo salutò e fece qualche passo riflettendoci su. Rientrando in camera guardò il ritratto di sua moglie che si era portato con sé e gli disse che aveva trovato un medico intelligente, che aveva studiato in Francia e che gli aveva illustrato una teoria sull'anima umana, anzi una teoria filosofica francese. Na canastra, a caravela, no coração a fragata, em vez de corvos no chão, gaivotas vêm poisar. Quando o vento lava o bar, baila no baile com o mar. Quando o vento lava o baile, baila no baile com o mar. Fu una bella settimana di diete, di terapie e di riposo, allietata dalla presenza del dottor Cardoso, con il quale ebbe sempre conversazioni vivaci e interessanti, soprattutto di letteratura. Fu una settimana che scivolò via in un attimo. Il sabato su Lisboa uscì la prima parte di Honorin di Balzac e il dottor Cardoso gli fece i suoi complimenti. Il direttore non lo chiamò mai, il che significava che al giornale andava tutto bene. Anche Monteiro Rossi non si fece mai vivo, e neppure Marta. Negli ultimi giorni Pereira ormai non pensava quasi più a loro e quando abbandonò la clinica per prendere il treno per Lisbona si sentiva tonificato e in forma ed era dimagrito di 4 kg, sostiene Pereira. Rientrò a Lisbona e una buona parte di agosto se ne andò come se niente fosse, sostiene Pereira. La sera si alzava un'impetuosa brezza atlantica che obbligava a mettere la giacca. Una sera, mentre era seduto sulla scrivania, intento a preparare un nuovo articolo, squillò il telefono. Pronto? Redazione della pagina culturale del Lisboa. Sì, sono io. È successo qualcosa? Al caffè Orchidea, stasera? Sì, ma... ascolti. Alle 8:35, sostiene Pereira, prese il tram per andare al caffè Orchidea, si sedette e subito dopo venne avvicinato da una giovane ragazza. Dottor Pereira, non mi riconosce più. Ma è lei, Marta? Non mi chiamo più Marta. Adesso sono Lise Delaunay, pittrice in viaggio in Portogallo. Ho un passaporto francese. L'unico motivo per cui riconobbe Marta in quella magra ragazza bionda dai capelli corti che stava vicino al ventilatore fu perché portava lo stesso vestito di sempre, altrimenti non l'avrebbe riconosciuta proprio. Marta sembrava trasformata. Quei capelli biondi e corti, con la frangetta e le virgole sulle orecchie, le davano un'aria sbarazzina e straniera, magari francese. E poi doveva essere dimagrita di almeno 10 kg. Le sue spalle, che Pereira ricordava dolci e tonde, mostravano due scapole ossute come due ali di pollo. Lei è irriconoscibile. Cosa le è successo? In certe circostanze è necessario diventare un'altra persona. E Monteiro Rossi? È arrivata questa per lui al giornale. È una cosa estremamente inopportuna. Ho scritto io questa lettera. Speravo che si mettesse in contatto con lei. Ma lui dov'è? Non so più niente. È partito con il cugino per reclutare dei volontari. Vorrei sbagliarmi, ma sento odore di guai. È vero. Siamo proprio nei guai e abbiamo bisogno di soldi. Che genere di guai? Sono guai che mi sono cercata. In fondo è la vita che ho scelto. Per lui è diverso. Senza di me lui non si sarebbe mai occupato di queste cose. Marta disse che non si poteva trattenere di più. Pereira la salutò e Marta se ne andò sgusciando via con delicatezza. La mattina successiva, sulle scale trovò la portiera che lo salutò cordialmente e che gli disse: buongiorno, dottor Pereira, come sta? Sto bene, grazie, Celeste. Niente posta stamattina. Beh. E neppure telefonate. Ma cosa ne sa lei, scusi? È venuto un commissario e ha fatto collegare il suo telefono con la portineria. Ecco, così, d'ora in poi, qui c'è un centralino. Se devo telefonare? Deve passare dal centralino, cioè da me. Io non l'avrei voluto il centralino. Devo già preparare il pranzo a mio marito e è così esigente. Sì, sì, si capisce dal puzzo di fritto che aleggia per le scale. Entrò in redazione, staccò il ricevitore del telefono e prese di tasca il foglio che gli aveva consegnato Marta la sera prima. Era un articolo scritto a mano con inchiostro azzurro e in cima c'era scritto ricorrenze. Diceva: 8 anni fa, nel 1930, moriva a Mosca il grande poeta Vladimir Majakovsky. Si uccise con un colpo di pistola per delusioni d'amore. Era figlio di un ispettore forestale. Pereira, anche se non faceva troppo caldo, sentì un velo di sudore che gli fasciava il collo. Quell'articolo avrebbe voluto cestinarlo perché era troppo stupido. Invece aprì la cartellina dei necrologi e ve lo infilò. Poesia e teatro. Celebriamo qui il grande democratico e il fervido antizarista. Uscì, andò al caffè e ordinò una limonata. Quando il cameriere arrivò con la limonata, Pereira gli chiese: che notizie ci sono? Notizie contrastanti. I nazionalisti hanno preso il nord, ma i repubblicani vincono al centro. Il guaio è che Mussolini ha mandato a Franco una gran quantità di sottomarini pieni di armi. Questo è tutto. Pereira ripensò al dottor Cardoso. Forse il suo nuovo io egemone aveva guadagnato qualche punto. Email audiogrammi @radio24.it. L'indomani mattina Pereira fu svegliato dal telefono. Era il suo direttore che lo convocava in redazione per una riunione. Si mise il vestito chiaro, la cravatta nera e andò al caffè Orchidea. Pereira ordinò una limonata senza zucchero e un'omelette alle erbe aromatiche. Si sedette vicino al ventilatore, ma quel giorno il ventilatore era spento. Il cameriere Manuel gli confidò che delle navi inglesi erano state bombardate al largo di Barcellona e che una nave passeggeri francese era stata inseguita fino ai Dardanelli da sottomarini italiani. Gli italiani sono tostissimi con i sottomarini, è la loro specialità, disse Manuel. Finì di mangiare la sua omelette e prese un'altra limonata senza zucchero. Poi pagò il conto, si alzò, indossò la giacca che si era tolta e si incamminò a piedi verso la redazione centrale del Lisboa. Quando vi arrivò erano le 5:15. Troppo presto, pensò. Così Pereira entrò in un caffè, sostiene, e ordinò un acquavite. Era certo che gli avrebbe fatto male al cuore, ma pensò: pazienza. Poi salì le rampe di scale del vecchio palazzo in cui si trovava la redazione del Lisboa. Bussò alla porta e sentì la voce del direttore che diceva avanti. Pereira si abbottonò la giacca ed entrò. Il direttore era abbronzato, molto abbronzato. Evidentemente aveva preso il sole nel parco delle terme. Allora ascolta, Pereira. Ti do del tu, così facciamo più in fretta. Lo sai che è più di un mese che non ti fai vedere? No, ci siamo visti all'hotel delle terme. Forse non lo ricorda. Ti prego di non cominciare a contraddirmi. Siediti. E come sono andate le vacanze alle terme? Ma vedo ancora abbronzato. Lascia stare le vacanze. Parliamo piuttosto della pagina culturale. Fai tutto di testa tua. Ma signor direttore, quando mi ha affidato la redazione, ha detto: Pereira, della cultura io me ne frego. Faccia come vuole, sono fatti suoi. Ho detto così? Sì, testualmente. Ho cambiato idea. Veniamo al dunque. Devo dire che questa da te non me l'aspettavo. Ma che cosa non si aspettava da me? Questo panegirico della Francia ha suscitato parecchi malumori nelle alte sfere. Ma quale panegirico? Oh, andiamo, Pereira, andiamo. Il racconto che finisce con la frase «Viva la Francia!» Sì, ma la censura non ha detto niente. La censura. Sono degli imbecilli analfabeti. Il direttore della censura, il maggiore Lorenzo, è mio amico, ma certo non può leggere tutto quello che scrivono i giornalisti. È a noi che spetta essere vigili. Siamo noi che dobbiamo sorvegliare noi stessi. Noi che dobbiamo censurarci quando è necessario. Ma io le avevo detto che si trattava di un racconto patriottico. Sì, ma pensavo si trattasse di patriottismo portoghese, non di patriottismo francese. Andiamo! Tu devi parlare della nostra patria, della nostra razza. I portoghesi non sono una razza, ma un miscuglio di popoli diversi. Ci sono celti, romani, arabi, ebrei. Ascolta bene, Pereira. Da questo momento in poi, qualsiasi cosa intendi pubblicare, tu devi prima consultarmi. Chiaro? Ai suoi ordini, signor direttore, certo. Credo che il nostro colloquio sia finito. Mi piacerebbe che il nostro rapporto fosse improntato a stima, a fiducia reciproca e alla fede. La fede negli stessi ideali. Sei d'accordo, non è vero? Sì, io sei sono d'accordo. D'accordo. Sì. D'accordo. Sì. Lisboa já tem sol, mas cheira a lua. Quando nasce a madrugada sorrateira, e o primeiro elétrico da rua faz corpo as chinelas da ribeira. Se chove, cheira a terra prometida, procissões têm cheiro a rosmaninho. Il giorno dopo Pereira restò in casa, sostiene. Si alzò tardi, fece colazione e mise da parte il romanzo che stava leggendo, perché tanto su Lisboa non sarebbe uscito. Si mise a sedere su una poltrona a guardare le finestre. Dalle finestre di casa sua si vedevano le palme della caserma di fronte e ogni tanto si sentiva uno squillo di tromba. Trascorse una buona parte del pomeriggio così, pensando alla sua infanzia. Verso le 4 del pomeriggio sentì suonare il campanello. Pereira si riscosse dal suo dormiveglia, ma non si mosse. Il campanello suonò di nuovo, insistentemente. Due volte, due lunghe scampanellate. Pereira si alzò e azionò il tirante che apriva il portone di sotto. Restò nel vano delle scale, udì il portone che si richiudeva piano piano e dei passi che salivano in fretta. Quando la persona che era entrata arrivò sul pianerottolo, Pereira non fu in grado di distinguerla perché sulle scale era buio e perché lui non ci vedeva più così bene. Era Monteiro Rossi. Indossava una camicia tutta stropicciata con le maniche corte e un maglioncino bucato. Cosa ci fa qui? Da dove viene? Poi le spiego tutto. Acqua. Vorrei dell'acqua, la prego. Venga. Non bevo da 2 giorni. Tenga. Grazie. Su, si sieda. Allora, mi racconti. Mio cugino è stato arrestato mentre reclutavamo volontari nel sud del paese. E io? E lei? Sono sfuggito per miracolo. Sono arrivato a piedi. Qualcuno sa che lei è qui? Nessuno, nemmeno Marta. Lei non mi manderà via, vero, dottor Pereira? No, qui lei è al sicuro. La portiera e gli inquilini di sopra sono in ferie. Ho bisogno di dormire. Non mi reggo più in piedi. Andiamo. Monteiro Rossi si coricò e Pereira chiuse la porta e ritornò in salotto. Ecco. Non dimenticherò mai quello che ha fatto. No. Lì ci sono i passaporti per i volontari. Mi nasconda lei. Un'ultima cosa. Devo contattare Marta. Questo è il suo numero. Le dica che sono al sicuro. D'accordo. Su, dorma adesso. Alle 8 Monteiro Rossi dormiva ancora. Pereira si recò in cucina, sbatté 4 uova, vi mise un cucchiaio di mostarda di Bigione e un pizzico di origano e di maggiorana. Voleva preparare una buona omeletta alle erbe aromatiche e forse Monteiro Rossi aveva una fame del diavolo, pensò. Apparecchiò per 2 nel salotto, poi andò a svegliare Monteiro Rossi, ma entrò piano nella stanza perché in fondo gli dispiaceva svegliarlo. Quanto tempo ho dormito? Parecchio. Ho telefonato a Marta. Hanno riattaccato. È stata un'imprudenza. Qualcuno ora sa che la stiamo cercando. Marta sa il fatto suo. Non si preoccupi. Posso lavarmi? Certo, venga. Le do una camicia pulita. Le ho portato un altro articolo. Bene, sentiamo. Il grande poeta spagnolo García Lorca ci ha lasciati in circostanze oscure. Ha donato al popolo la sua passione per il teatro, la cultura, la libertà. Sappiamo chi l'ha assassinato. Gli sgherri del generale Franco. Abbiamo amato García Lorca per le sue poesie. Lo piangiamo oggi per il suo coraggio. Il suo sacrificio... Lo so, anche questo non va bene. Devo confessarle una cosa. Questi necrologi non li ho scritti tutti io. Me li ha suggeriti in buona parte Marta. L'avevo intuito. Lei lo sa cosa gridano i nazionalisti spagnoli? Viva la muerte! E a me piace la vita. Io lo dissi la prima volta. Ricorda? Da solo non sarei mai stato capace di parlare di morte. In fondo lei ha ragione. Anch'io non ne posso più. È un bell'articolo, scritto col cuore. Pereira portò in tavola le ciliegie sotto spirito e Montairo Rossi se ne fece un bicchiere pieno. Pereira prese solo una ciliegia con un po' di sugo, perché temeva di rovinare la sua dieta. In quel momento sentirono bussare alla porta. Erano colpi decisi, come se volessero sfondarla. Pereira si chiese come fossero riusciti a passare dal portone di sotto e rimase qualche secondo in silenzio. I colpi si ripeterono in maniera furiosa. Arrivo! Chi è? Aprite, polizia! Un momento! Aprite, polizia! Un momento! Aprite o sfondiamo la porta! Sostiene Pereira che erano tre uomini vestiti con abiti civili e che erano armati di pistole. Il primo che entrò era un magrolino basso con dei baffetti e un pizzo castano. Polizia politica! Disse il magrolino basso con l'aria di quello che comandava. Dobbiamo procedere alla perquisizione della casa. Ma mi faccia vedere il suo documento. Avete sentito? Vuole il documento di cosa? Sì. Uno dei due puntò la pistola contro la bocca di Pereira e sussurrò: la parola del comandante non ti basta? Preferisci questa come documento? Senta, Pereira, sappiamo che lei è una brava persona. Non ha semplicemente capito con chi aveva a che fare, non è così? Ma non potete fare una perquisizione senza autorizzazione. Dice che non possiamo perquisire senza autorizzazione. Fonseca, cosa bisognerà fare per convincerlo? L'uomo che teneva la pistola puntata contro Pereira gli dette un forte colpo con il tacco della scarpa. E Pereira barcollò. Noi non ce l'abbiamo con lei, siamo solo venuti a dare una lezione a un giovanotto che ha studiato tanto ma ha smarrito il senso della patria. Siamo qui per farglielo ritrovare e per sapere dove si trova una certa sua amichetta. Sappiamo che lei è vedovo, che non frequenta donne, ma se le piacciono i ragazzini, noi non ci scandalizziamo. Lei è ignobile, tutto questo è ignobile. Basta, basta così, hai capito? Tiralo fuori, lo spacco tutto qui dentro. Via te, ti spacco il muso, hai capito? In quell'istante Montairo Rossi uscì di sua spontanea volontà dall'altra stanza. Sono qui. Lima, è tuo. Audiogrammi Radio 24 è anche su Facebook. E in podcast su radio24.it. Lima prese per il collo Montairo Rossi e lo spinse nello studio sbattendo la porta. Non gli facciamo niente. Ci dice dov'è la sua amichetta e lo lasciamo. Voglio telefonare alla polizia. Ma la polizia sono io. Ecco, che aspetti? Telefonami. Ma dov'è il telefono? Pronto? Polizia? Sì, qui è la polizia. È la polizia, sì, sì. Cosa gli state facendo? Io voglio andare a vedere. Fermati, pezzo di merda! Pereira sostiene che a quel punto si alzò dalla seggiola, il magrolino basso di scatto lo colpì con la pistola e Pereira cominciò a sanguinare dalla bocca. In quel momento i due tangheri ritornarono in salone, sembravano nervosi e avevano un'aria affannata. Allora? Non ha parlato. È meglio filarcela. Sentimi bene. Tu non ci hai mai visti qui. Non tentare di fare il furbo, perché la prossima volta potremmo venire per te. Tutti e tre si precipitarono alla porta. Pereira chiuse la porta a chiave e li sentì discendere le scale, sostiene. Montaino Rossi, sono andati via. Sono andati via. È finito. Sono andati. Poi si precipitò in camera da letto e trovò Montaino Rossi riverso sul tappeto in un lago di sangue. Montaino. Montaino Rossi aveva gli occhi spalancati e guardava il soffitto. Pereira gli dette un altro schiaffetto, ma Montaino Rossi non si mosse. Allora Pereira gli prese il polso, ma nelle vene di Montaino Rossi la vita non scorreva più. Gli chiuse quegli occhi chiari spalancati e gli coprì il volto con l'asciugamano. Poi gli distese le gambe per non lasciarlo così rattrappito. Gli distese le gambe come devono essere distese le gambe di un morto. E pensò che doveva fare presto, molto presto. Ormai non c'era più tanto tempo. Pereira sostiene che gli venne un'idea folle, ma forse poteva metterla in pratica, pensò. Andò in camera da letto e tolse l'asciugamano dal volto di Montaino Rossi. Lo coprì con un lenzuolo, poi andò nello studio e si sedette davanti alla macchina per scrivere. Scrisse come titolo «Assassinato un giornalista». Poi andò a capo e cominciò a scrivere. Si chiamava Francesco Montaino Rossi. Era di origine italiana. Collaborava al nostro giornale. Ha scritto testi sui grandi scrittori della nostra epoca, da García Lorca a Majakowski. Non sono stati ancora pubblicati, ma forse un giorno lo saranno. Era un ragazzo simpatico che amava la vita. Pereira descrisse ogni minimo dettaglio dei tre uomini armati che avevano fatto irruzione nell'appartamento e che secondo lui erano solo dei facinorosi, delle violenze subite, del sangue, dei colpi nell'altra stanza e infine la descrizione del cadavere che si trovava al secondo piano di Rua della Saudade numero 22, proprio in casa dell'autore di quell'articolo. Pereira andò a capo e sotto, a destra, mise il suo nome. Firmò soltanto Pereira, perché era così che tutti lo conoscevano, con il cognome, come aveva firmato tutti i suoi articoli di cronaca nera per tanti anni. Alzò gli occhi alla finestra e vide che albeggiava sulle braccia delle palme della caserma di fronte. Sentì uno squillo di tromba. Pereira si sdraiò su una poltrona e si addormentò. Quando si svegliò era già giorno alto e Pereira guardò allarmato l'orologio. Pensò che doveva fare in fretta, sostiene. Chiamò il dottor Cardoso e gli raccontò tutto. Gli disse che doveva stare al gioco e che lo avrebbe chiamato più tardi, una volta arrivato alla tipografia del giornale. Si fece la barba, si sciacquò il viso con dell'acqua fresca e prese dall'archivio la cartellina dove aveva scritto «Necrologi». La mise in una borsa di cuoio e uscì. Prese un taxi per andare in tipografia. Quando arrivò trovò il proto tutto affannato, il giornale sarebbe uscito di lì a un'ora. Pereira gli consegnò l'articolo, il proto lo lesse e si grattò la testa. Montaino Rossi, questo giornale ti ricorda e ti saluta. Firmato Pereira. Ma lei davvero vuol firmare questo? Questa è una faccenda molto grave. Mi porta un simile articolo senza visto censura. Ci conosciamo da oltre 30 anni. Le ho mai creato un problema. Erano altri tempi. No, questo articolo deve uscire oggi. Ho parlato con il capo della censura e ho ottenuto il suo consenso verbale. Il capo della censura? Sì, il maggiore Lorenzo. Era mio compagno di scuola. L'ho presentato io al nostro direttore. Lei è amico del maggiore Lorenzo? Senta, lo chiamo al telefono E ci parla lei, lei direttamente. Pereira fece un sospiro profondo, fece il numero del dottor Cardoso e passò la cornetta al proto. Sì, maggiore. Come si chiama, amico mio? Mi ascolti bene, Pedro. Lei deve essere fiero di pubblicare in esclusiva l'articolo del dottor Pereira. Mi stupisce che come cittadino, prima ancora che come tipografo, lei faccia delle resistenze. Chiedo scusa, signor maggiore. A proposito, in che pagina pensate di metterlo? Nella pagina culturale? No, no, non se ne parla, amico mio, in prima pagina. Grazie, signor maggiore. Sarà fatto. Sì, signore. In prima pagina. Mi ha ordinato di metterlo in prima pagina. Se l'ha ordinato il maggiore. Accipicchia Pereira. Ne ha fatta di strada lei. Sì. Il dottor Cardoso era entrato proprio nella parte. Lasciò il suo articolo al signor Pedro e uscì. Si sentiva esausto e aveva un gran rimescolamento negli intestini. Pensò di fermarsi a mangiare un panino al caffè all'angolo, invece ordinò solo una limonata. Poi tornò a casa con cautela, con il timore che qualcuno lo stesse aspettando. Ma in casa non c'era nessuno, solo un grande silenzio. Andò in camera da letto e dette uno sguardo al lenzuolo che copriva il corpo di Monteiro Rossi. Poi prese una piccola valigia, ci mise lo stretto necessario e la cartellina dei necrologi. Andò alla libreria e cominciò a sfogliare i passaporti di Monteiro Rossi. Finalmente ne trovò uno che faceva il caso suo. Era un bel passaporto francese, fatto molto bene. La fotografia era quella di un uomo grasso con le borse sotto gli occhi e l'età corrispondeva. Si chiamava Baudin, François Baudin. Gli parve un bel nome a Pereira. Lo cacciò in valigia e prese il ritratto di sua moglie. Lo mise a testa in su perché respirasse bene. Che cosa faccio? Te lo spiego dopo. Poi si dette uno sguardo intorno e consultò l'orologio. Era meglio affrettarsi. Il Lisboa sarebbe uscito fra poco e non c'era tempo da perdere, sostiene Pereira. Sostiene Pereira che mentre si allontanava tra la folla aveva la sensazione che la sua età non gli pesasse più, come se fosse tornato un ragazzo, agile e svelto, con una gran voglia di vivere. E allora ripensò alla spiaggia della Grange e a una fragile ragazza che gli aveva dato gli anni migliori della sua vita. E per ricordare tutto ciò ebbe voglia di fare un sogno bellissimo a occhi aperti. Ma di questo sogno non vuole parlare Pereira, perché lo avrebbe raccontato di persona a colui che vi ha narrato questa storia. Testo tratto da Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi.